Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, vi stavo aspettando. Abbiamo Pietro Lacorte oggi in regia alla parte tecnica, come sempre Laura Banossi in redazione. Andiamo a sentire i titoli di oggi. Pelle, specchio della nostra salute ma anche delle nostre emozioni. Magnesio, un oligo minerale amico del nostro benessere. Giornata mondiale della sclerosi multipla. Fai andare più veloce il mondo della ricerca. Prurito e rossore, sintomi comuni a molti disturbi cutanei e al tempo stesso prove, direi, visibili del rapporto tra emozioni e cute. Un rapporto magnifico che al tempo stesso però è molto complesso, che oggi impareremo a conoscere e a interpretare. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Carlo Gelmetti, direttore dell'Istituto di Scienze Dermatologiche dell'Università di Milano. Professore, bentornato, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. In studio con me la dottoressa Daniela Marafante, medico, psicoterapeuta e condirettore della rivista Rizza Psicosomatica. Benvenuta, finalmente la vedo. Grazie, buongiorno a lei. Professor Gelmetti, lei si occupa sicuramente dell'organo più esteso del nostro corpo, che è anche il più visibile. E questo credo faccia la differenza, perché chi soffre di una malattia cutanea deve fare i conti anche con lo sguardo degli altri, che a volte corrisponde ad un giudizio, non sempre benevolo. Ma bisogna dire che certe volte noi tendiamo a colpevolizzare gli altri quando ci sentiamo osservati, ma in realtà tutti noi, anche inconsciamente e anche in buona fede, in ottima fede, siamo proprio portati da un giudizio immediato su quello che vediamo. Sì. Ovviamente questo è condizionato dal nostro vissuto, dalla nostra educazione, dal nostro ambiente culturale, ma è una cosa istintiva. E quindi il fatto che ci sentiamo certe volte osservati non deve essere, diciamo, un giudizio negativo nei confronti di coloro che ci osservano. Certo, però questo può metterci in imbarazzo. Certo, può essere in imbarazzo, però dobbiamo tener conto che anche negli animali il dato visivo è un dato primario. Io mi ricordo un bellissimo esperienza che aveva fatto l'allievo di Lorenz, in cui addirittura sui pesci, mi sembra, se non ricordo male, sui lavarelli, dove bastava mettere un pesce falso addirittura, solamente più colorato, per avere un richiamo, in questo caso sessuale, clamoroso. E quindi la conseguenza era che anche i pesci preferivano un pesce falso, più rosso, ad esempio, potremmo dire con un bel rossetto, a una pesciolina vera che magari ci stava. Beh, succede anche di questi tempi, no? Sembra. Comunque, dottoressa Marafante, con lei impareremo a considerare la nostra pelle, direi, come una sorta di film, di pellicola, sulla quale conflitti, imbarazzi, disagi, ma anche emozioni positive lasciano il segno. E questo lo sappiamo bene, lo sperimentiamo quasi ogni giorno e lo affermiamo anche senza rendercene conto, con molti modi di dire che sono entrati nel linguaggio comune. Si dice non sto più nella pelle, solitamente per esprimere gioia, oppure a fior di pelle, riferito magari un po' a un'antipatia. E se qualcosa ci turba profondamente, la pelle la cambiamo e diventa d'oca. Insomma, la pelle parla molto di noi. È effettivamente la nostra identità esterna, proiettata verso l'esterno. Noi abbiamo un io psichico, un sistema nervoso che reagisce alle nostre emozioni con sostanze chimiche, mobilitandoci anche qui la pelle, con, come diceva lei giustamente, no? I brividi, la pelle d'oca. E pelle e sistema nervoso, per esempio, provengono dallo stesso foglietto embrionario. Quindi possiamo parlare di uno specchio psichico riferiti alla nostra pelle. Purtroppo non la possiamo comandare razionalmente e lei ci tradisce. Arrossisce, sbianca, si irrita, addirittura si piange, si lamenta dolorosamente quando noi viviamo qualche cosa in modo non adatto alla nostra vera natura. Allora, se volete raccontarci in quali situazioni la pelle parla di voi, vi tradisce, come diceva la dottoressa Marafante, facendo magari affiorare emozioni che preferireste tenere nascoste, chiamateci all'800 24 0024, ma il nostro numero verde è anche a disposizione per aiutarvi a trovare una spiegazione, direi anche un rimedio a sintomi che non siete ancora riusciti a spiegare e che vi creano comunque preoccupazioni, fastidio, imbarazzo. Penso al rossore di cui parleremo, ma anche al bruciore, ad una secchezza particolare, al fastidiosissimo prurito. I nostri esperti sono a vostra disposizione sino a mezzogiorno, direi che è il caso di approfittarne. Potete come sempre raggiungerli anche via SMS 349 238 6666. Una mela al giorno. Magnesio, si sente parlare spesso di questo oligoelemento, un mattone in termini semplici che compone il nostro corpo, capace di ottimizzare il funzionamento di oltre 300 enzimi, responsabili di altrettante funzioni vitali. Per questo il magnesio ha meritato l'appellativo di amico della salute. Eppure il 20% della popolazione italiana ne risulta carente, soprattutto a causa di un'alimentazione poco equilibrata, una carenza che può tradursi in disturbi di vario genere. Ne parliamo con la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e direttore del Centro di Ginecologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano. Professoressa, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Professoressa Graziottin, allora, iniziamo a capire la causa o le cause di questa carenza. Dobbiamo riconoscere che la carenza di magnesio è frequente quando abbiamo un'alimentazione carente di cibi freschi, quando abbiamo avuto malattie che ci hanno portato ad avere febbre alta e quindi sudorazione profusa, quando siamo molto sportivi, ossia, e quando abbiamo molto stress, quindi in condizioni in cui c'è o una ridotta introduzione con l'alimentazione e o un aumento delle perdite per malattie intercorrenti, per disturbi gastrointestinali, per lo stress stesso. Professoressa, ma allora come possiamo accorgerci di essere in riserva? Parliamo anche dei sintomi che potrebbero far sospettare una carenza di magnesio. Da un lato abbiamo sintomi legati alla sregolazione dell'ipotalamo, che è la centralina che regola i nostri bioritmi, quindi noi avvertiremo irritabilità, stanchezza, astenia, però anche in innalzamento della pressione arteriosa, perché questo, il magnesio, ha una funzione fondamentale nel rilassamento dei nostri vasi e nell'aumentare il nostro senso di benessere. Da un lato sintomi più correlati invece all'aspetto psichico e quindi irritabilità, aggressività, iperreattività. Accertata una carenza, possiamo correre ai ripari, correggendo quindi la nostra dieta, ma ci sono degli alimenti a cui dare la precedenza, altri da limitare? Preferire cibi freschi, frutta, verdura, latte, evitando invece i cibi conservati, che oltre a essere carenti in magnesio hanno anche un aumento di aminoacidi, sostanze che vanno ad aumentare gli aminoacidi eccitatori, aumentando quindi la nostra irritabilità. Dall'altro, in farmacia è possibile utilizzare diversi integratori, per esempio 1500 mg di bidolato di magnesio sono sufficienti nel giro di 20 giorni a ripristinare le nostre riserve e a darci quel senso di benessere che avevamo perduto. Professoressa Graziottin, la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata, a presto. Pronto soccorso. E torniamo ad affrontare il tema del giorno, un tema che secondo me è molto interessante, mi piace, perché parliamo di pelle, di questo organo di confine, di barriera, di protezione, ma anche di espressione delle nostre emozioni, specchio dell'anima e specchio della salute. 800 24 0024 se volete parlarne con noi, 349 238 6666 se preferite scriverci. Professor Gelmetti, a proposito di pelle come specchio della salute, una pelle sana è una pelle che ha un colore uniforme. Per questo rossori, pallori, macchie chiare, scure, colorate ci destano sempre un po' di preoccupazione. Insomma, ci chiediamo come mai. Ma dunque, il fatto che il nostro corpo sia pigmentato in maniera regolare si sposa col fatto che la nostra vista apprezza superfici lisce, apprezza simmetria. Ad esempio, il concetto di bellezza è sostanzialmente spesso un concetto di simmetria, e quindi quando ci sono delle differenze più o meno limitate di colore già ci mettiamo un po' in apprensione, tanto vero che il concetto dei nei, dei semplici nei, è tradotto in tantissimi tantissimi modi verbali, come basta pensare alla famosa storia delle voglie, che attribuisce a una voglia presunta di origine materna la comparsa dei nevi o di angiomi nella prole, cosa che ovviamente non ha nessun fondamento scientifico, ma per dire il fatto che sia non solo in Italia ma anche in molti altri paesi, basta pensare la Francia, dove si dice envie, che è la traduzione tra di voglia, o basta pensare la Germania, dove si dice Muttermal, il segno della mamma, per dire che questo tipo di visione un po' antica fa fatica a morire. D'altra parte bisogna anche riflettere al fatto che quando c'è una chiazza soprattutto acquisita, cioè che non era presente alla nascita, il ruolo della mamma, che non è mai esistito nemmeno in quelle congenite, diventa ovviamente inesistente, e quindi l'interpretazione viene spostata su una malattia che in effetti spesso è la verità. L'ultima notazione sulla differenza di colore va fatta un po' in senso autocritico, nel senso che noi europei tendiamo a essere, giustamente vorrei dire, europocentrici, a pensare che la pelle sia un foglio sostanzialmente bianco su cui le chiazze rosse, degli angiomi nere, dei nevi o altro si staccano dal fondo, mentre invece sappiamo che nei 2/3 della popolazione mondiale la pelle da scura, molto più scura, e questo fa pensare ad esempio come poter vedere ad esempio un'emozione, un rossore sul volto su una persona ad esempio di colore. Quindi una paziente imbarazzata che rispetto a un complimento eccetera, o a una malattia, un'orticaria eccetera, che si arrossa, non avremo la stessa visibilità in una persona di colore, anche se è presente, basta pensare alle malattie esantematiche dei bambini scuri. Dottoressa Marafante, torniamo ad essere europacentrici, riprendiamo alcuni modi di dire che abbinano proprio le emozioni e i colori. La paura è bianca, la passione, la rabbia sono rosse, l'invidia è verde, gialla, diciamo anche rossa, però insomma c'è tutto questo, c'è tutta questa cromoterapia della nostra pelle. Sì. E questo hanno un fondamento, questi modi di dire, è vero che queste emozioni sono così colorate? Certamente. Il linguaggio ha sempre un fondamento in un inconscio collettivo. Tutto ciò che noi diciamo, utilizziamo come parole, provengono da molto lontano. E per esempio il bianco, si dice sbiancare dalla paura, ma una patologia come la vitiligine, per esempio, che mi comporta l'avere chiazze bianche sulla pelle, mi fa pensare a un tentativo inconscio di eliminare il nero concepito come peccato, però come macchia sporca. Io sono pura, io sono pulita, guarda come sono bianca. E la vitiligine è una patologia che si dice appunto psicosomatica, come tante patologie cutanee, in cui ha comunque c'è una componente psicosomatica. Professor Gelmetti, lei come dermatologo che cosa dice a proposito? Perché mescolare le vostre competenze, Il meccanismo della vitiligine, come altre malattie autoimmuni, è un meccanismo appunto di autorigetto, se vogliamo, e quindi è stato abbastanza ben studiato in alcune patologie meglio, come il diabete giovanile, in alcune patologie un po' più misteriose, come la vitiligine, è un po' più difficile da studiare, un po' meno bene. La cosa che rimane ancora in sospeso è cos'è che scatena questo meccanismo. E qui la discussione rimane aperta. E infatti, dottoressa Marafante? Volevo salutare il professor Gelmetti, forse lui non se lo ricorda, ma un po' di anni fa è stato il primo a parlarmi di dermatologia psicosomatica. No, mi ricordo. No, si ricorda tutto il professor Gelmetti. E qui io, dottoressa Marafante, quindi abbiamo detto vitiligine, abbiamo parlato di macchie chiare, con quasi un bisogno di dire guarda come sono pulito dentro. Oppure macchie rosse che mi tradiscono. Io me ne rendo conto spesso in terapia, quando una paziente femmina mi parla pacatamente, razionalmente, delle sue emozioni, e io sposto il mio sguardo dal collo in giù. Se ha una camicetta, una maglietta un pochino scollata, nel 90% dei casi si riempie di macchie rosse. Questo segnale mi dice che ci sono delle emozioni che la persona trattiene, controlla, ma che la sua pelle tradisce. Questo è verissimo. Vero, professore, sul rossore non riusciamo proprio, i timidi lo sanno bene, io ogni tanto mi sento proprio la faccia che avvampa e mi preoccupo sempre, dico adesso se ne sarà accorto, spero sempre che il trucco mascheri, professor Gelmetti. Ma la Fante, che ovviamente ha esperienza, giustamente faceva questa osservazione abbastanza, diciamo, furbetta, nel senso che mentre il, soprattutto ovviamente nel pubblico femminile, l'utilizzo di un cosmetico può chiaramente occultare la risposta eritematosa a un imbarazzo o a una sensazione di conflitto o di vergogna, è chiaro che il décolleté di solito uno non ci mette su qualcosa di coprente, e quindi è lì soprattutto che va guardato. Allora, se siete timide donne, ricordate di dare un po' di cipri anche sul décolleté se volete mascherarvi. Lasciatemi dare questo consiglio. Professor Gelmetti, vorrei dare la linea a Sandro, perché abbiamo Sandro, Grassella e Yolanda già che ci aspettano. Sandro, buongiorno. Buongiorno, spero mi ascoltiate bene perché sono in auto. Sì. Lei guidi per bene, tenga le mani sul volante. Sono sul volante e anche con l'auricolare. Bene. Buongiorno innanzitutto. Allora, volevo brevemente spiegarvi una cosa. Qualche giorno fa si è verificata una cosa sulla pelle, cioè all'altezza della spalla è stata una grossa bolla. Dopodiché per un giorno o due null'altro. Dopo tre giorni alcune bolle quasi in fila indiana, sì, su tutta la parte del petto fino al fianco sul lato destro. Diciamo che ne ho contate una ventina, sì, e anche alcune sulla pancia altezza ombelico. Da allora non è rimasto quello. Ma prudono? Prudono, Sandro? No, tranne la prima, che ha dato un po' di fastidio all'inizio, poi le altre no. Io faccio piscina e ho sospeso per il momento, non sono andato al mare, sì, nonostante immagino che a Napoli sia. Professor Gelmetti, da una bolla ne sono nate altre piccole? Probabilmente per bolla l'ascoltatore intendeva una chiazza rossata leggermente rilevata e non una cavità piena di liquido. Sì. Se fosse così, probabilmente è una pityriasi rosea di Gilbert, che è una patologia che comincia classicamente con una chiazza più grande delle altre, sì, che spesso è all'attaccatura degli arti, la quale rimane solitaria per due o tre giorni, e poi nei giorni successivi compaiono delle chiazze simili alle precedenti ma più piccole, le quali occupano sostanzialmente il tronco e si fermano alla radice degli arti. La malattia è praticamente asintomatica e passa nel giro di 4 o 6 settimane, però non sono bolle in senso dermatologico, cioè se non c'è l'acqua dentro. Bucare, non c'è acqua dentro. Sandro, le sue non avevano l'acquetta dentro, vero? No, io ho usato la gentamicina e betametasone, ovviamente lavandomi con un sapone particolare. Comunque, Sandro, si è ritrovato nella descrizione del professor Gelmetti? Al 101%. Al 101%. Il professor Gelmetti è un mito. Andiamo a Graziella, che ci chiama da Pordenone. Graziella, buongiorno. Buongiorno. Io avevo una domanda da fare a tutti e due i suoi ospiti. Bravo, brava. Da qualche tempo, da qualche anno diciamo, in maniera più grave prima, adesso un po' meno, ho degli arrossamenti costanti alla base delle narici, al lato delle narici. Sì. E alla fine del naso, in alto, diciamo, alla base delle sopracciglia. Qualche volta si squama, qualche volta no. E non riesco a mandar via questo, perché io non uso il cortisone praticamente, non lo voglio usare. Trovo sollievo solo con il burro cacao. Sì, ha provato il beneficio del burro cacao. Dottoressa Marafante, un rossore localizzato in dei punti abbastanza visibili, perché naso, basi del lato del naso e proprio nell'attaccatura delle sopracciglia, quindi è la pelle del viso che parla. Direi che è un segnale abbastanza netto, o di un'irritazione, di un disagio, o proprio per la localizzazione sul naso di qualcosa che la signora ha intuito farebbe in un altro modo e non sta facendo. Quindi il suo fiuto, il suo naso le sta dicendo che c'è un'emozione, un'arrabbiatura di cui lei non vuole prendere atto. Professor Gelmetti, andiamo alla lettura del dermatologo. Allora, qui la patologia, la diagnosi è facilissima, è una chiara dermatite seborroica. La dermatite seborroica prende soprattutto le donne, diciamo dopo i 35 anni, lato del naso, base del naso e leggermente le sopracciglia, qualcosina può essere retroauricolare, migliora in maniera clamorosa stando 2 o 3 mesi al mare, peggiora in inverno, ha delle oscillazioni giornaliere al mattino molto presto, alle 3, 4, 5 del mattino si vede di meno, mentre alle 8 di sera peggiora clamorosamente e è sostanzialmente dal punto di vista biologico una reazione esagerata alla flora di superficie che è molto abbondante nei follicoli piniferi, quindi ai lati del naso non arriva la luce, sotto le sopracciglia non arriva la luce perché ci sono i peli e quindi non c'è l'effetto sterilizzante degli raggi ultravioletti. Cosa si può fare in 30 secondi, un consiglio per chi si ritrova, perché abbiamo i mercati e Pietro Lacorte mi sta già facendo una bruttissima faccia perché sto sforando, o ne vogliamo parlare dopo? Voglio dire, quello che diceva Marafante è giusto in molti casi, nel senso che in molti casi emerge una problematica di conflitto, però bisogna anche dire che in molti casi 30-70% emerge una problematica intestinale, il che non è in opposizione con quello che diceva la Marafante. Certo. Siamo tornati insieme, oggi impariamo a decifrare il linguaggio della nostra pelle, organo meraviglioso e complesso su cui le emozioni lasciano segni e tracce. In linea con noi il professor Carlo Gelmetti, ordinario di dermatologia all'Università Statale di Milano, ed insieme a noi anche la dottoressa Daniela Marafante, medico, psicoterapeuta e condirettore della rivista Rizza Psicosomatica. Ma io voglio salutare il professor Mario Alberto Battaglia, presidente della Fondazione Italiana della Sclerosi Multipla, che è in linea con noi per lanciare una appello in occasione della prima giornata mondiale della sclerosi multipla che si celebra oggi. Professore, buongiorno. Io direi di partire subito dall'appello che tutte le organizzazioni mondiali stanno rivolgendo in questa giornata. L'appello è unisciti al movimento per vincere contro la sclerosi multipla, e l'Italia è aderito a questa campagna con un appello a rendere più veloce la ricerca, più veloci con la ricerca che oggi può farci arrivare prima a vincere contro la sclerosi multipla. Professore, direi che però la ricerca in Italia va veloce e ha raggiunto brillantissimi risultati. Tra l'altro, diciamolo, i ricercatori italiani sono tra i più quotati al mondo e da anni sono impegnati a trovare cause e terapie per questa malattia che sappiamo una delle più gravi del sistema nervoso. Sono stati fatti tanti passi avanti e ci sono tutte le premesse per continuare ad andare veloci. Professor Battaglia. Sicuramente la ricerca italiana ha dato e continua a dare un contributo significativo in questo campo della sclerosi multipla e non solo, ma nel nostro campo specifico ha aperto strade che hanno cambiato lo scenario, innanzitutto facendo capire che cosa succede nel momento, nella zona della lesione, della malattia, che è una premessa importante perché attraverso la neuroimmunologia riusciamo a individuare tutte quelle sostanze che possono poi un domani trasformarsi in terapie, in parte alcune terapie le abbiamo già, le avremo a breve, e così come la ricerca italiana ha aperto campo significativo nell'ambito delle cellule staminali adulte, che proprio la ricerca italiana ha dimostrato che cambiano l'ambiente della lesione e quindi creano le premesse, rimanendo a lungo nella zona della lesione, per facilitare la riparazione naturale, e questo è sicuramente un risultato importante. Soprattutto la ricerca italiana sta aprendo la strada della sperimentazione sull'uomo e addirittura partecipa al coordinamento mondiale della ricerca in questo campo, così come la ricerca italiana ha aperto negli anni scorsi e continua ad essere leader nel mondo nella ricerca sulla neuroradiologia, cioè con la risonanza magnetica che fa vedere le lesioni e fa soprattutto capire come possiamo verificare cosa succede nella zona delle lesioni anche provando le nuove terapie. E la ricerca sui sintomi che ha portato nuove sostanze e la ricerca in riabilitazione è ancora una volta leader nel mondo. Sicuramente in uno scenario in cui nella sclerosi multipla abbiamo oggi dei farmaci che rallentano la progressione, l'anno prossimo ne avremo di nuovi e entro il 2015 saranno sicuramente circa una quindicina le terapie a disposizione per affrontare la malattia nelle diverse fasi e nelle diverse realtà e quindi dare speranza a chi sarà colpito in quel momento dalla malattia per non arrivare alla disabilità, ma soprattutto dare anche qualità di vita a chi la sclerosi multipla ce l'ha già. Professor Battaglia, io ricordo il numero verde dell'AISM 800 803 028 e invito gli ascoltatori di Radio 24 a visitare il sito aism.it. Professore, grazie per essere stato con noi, buona ricerca. Grazie a tutti coloro che ci sostengono. Allora, torniamo a parlare della pelle. Qualcuna l'ha definita come telegrafo per il mondo esterno e specchio per il mondo interno. 800 24 00 24, se siete d'accordo e volete oppure confutare questa tesi. Intanto passo subito la parola a Yolanda da Napoli, che forse ha bisogno dei nostri esperti. Yolanda, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto volevo farle i complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre. Molti utili consigli. Grazie. Poi secondo me Yolanda portiamo anche bene. Sì, ci vuole perché in questo periodo non è che le cose sono andate benissimo. Comunque stiamo risolvendo tutti i problemi. Bene. Allora, le volevo dire, volevo parlare a nome di mio figlio che ha 11 anni e sta a scuola. Sì. Per cui volevo dire a nome suo che ha una pelle già dall'età di 4-5 anni, non liscia, soprattutto nella zona delle guance, sì, arrossata spesso, soprattutto dopo lo sport, ma anche senza fare sport, con piccoli brufolini sotto pelle, sì, anche dietro le braccia, cioè le zone sono guance e braccia. Siamo andati dai dermatologi, mi hanno dato delle creme, delle cotine, cioè, ma il problema non è mai stato risolto. Mi hanno detto che con l'età è un tipo di patologia che tende a migliorare sensibilmente, però ho pensato anche a qualcosa di allergico a questo punto. Sono un po' confusa, cioè vorrei capire se il professore ha individuato più o meno Guardi, sicuramente sì, professor Gelmetti. Allora, ha già capito tutto. La diagnosi, anche in questo caso, anche perché la mamma l'ha descritta molto bene, è facile, è una cheratosi pilare. La cheratosi pilare è l'espressione, se vogliamo metterla un po' sul faceto, del tentativo dei mammiferi, cioè noi, sì, di avere dei peli più grossi nelle zone estensorie e quindi sul lato del volto, ovviamente bilaterale, sì, sulla parte estensoria degli arti superiori, sì, che quindi è la parte esterna del braccio e meno nell'avambraccio, e sulla parte estensoria degli arti inferiori e quindi anche un po' sul gluteo e sul lato della coscia. Sì. Il tentativo, diciamo, è quello di un animale voluto, noi, di ritornare un po' un animale un po' più protetto. Basta, sì, pensare alla differenza che c'è tra, non so, un maialino e un cinghiale. Sì. Alcuni di noi sono più pelosi, altri di meno. In questo caso cosa succede? Abbiamo un invitto di cheratina dove esce il pelo. Non c'entra niente con l'allergia e il miglioramento è dato dal fatto che quando il paziente cresce, sì, primo la pelle si spessisce un attimo in senso lato, per cui la differenza rimane meno evidente. Sì. Secondo, soprattutto nei maschi, l'emergenza dei peli, della barba e degli arti evidentemente fa sì che i peli grossi, definitivi, terminali come si chiamano, riescano a forare questo canale, questo piccolo tappo cheratinico, e quindi la faccenda poi diventa assolutamente non più percepibile. Però bisogna aspettare qualche annetto che i peli diventino belli e robusti. Che gli venga la barba. Esatto. E meno male che è un ragazzino. E meno male che è un maschio. Perché se fosse una capita anche alle femmine? Capita anche alle femmine, però bisogna dire che il fastidio dopo la pubertà si attenua tantissimo. In realtà se uno va a toccare con una mano delicata sia il volto sia la zona dietro i gomiti, cioè nella parte posteriore del braccio, sente che la pelle è un filino sì, un po' ruvidina, sì. Si chiama spinulosismo anche, come se avere tante piccole protrusioni, ma è una cosa del tutto benigna. Quindi Yolanda sta contenta, serena, e poi a sto ragazzino crescerà la barba e il problema si risolverà. Beh, mi piace. Roberta, andiamo a Varese, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, è in linea, con noi. Grazie, è la mia prima volta. Complimenti per la trasmissione, è bellissima. Volevo fare questa domanda ai suoi esperti. Sì. Io da diversi anni ho praticamente come delle squamature alle mani. Sì. Che si presentano soprattutto nella stagione invernale. Mm. E riguardano l'interno della mano, sì. Le dita, sì. Le dita vanno anche all'esterno, sì. Parte con delle bollicine di pelle spessa. Mm. Che poi si rigonfiano e siccome io me le gratto praticamente, a volte creo anche degli arrossamenti. Immagino, non resiste? Infatti, eh? Non resisto, no, mi continuo a grattare le mani, infatti mio marito mi insulta in continuazione. Dottoressa Marafante, le mani. I pruriti alle mani. Che cosa e anche queste desquamazioni ancora prima. È come se lei si stesse levando, non so che lavoro lei svolga anche. Roberta, che lavoro fa? Faccio il tecnico commerciale. Il tecnico commerciale, sì, per cui... la psicologa dei miei clienti, visto che in questa fase di crisi immagino più lacrime e dolori che, ecco, che ordini. Magari la pelle delle mani parla. Forse la sua pelle vuole esprimere un dolore perché viene si desquama con queste piccole pustole con liquido. O forse vuole anche esprimere un'insoddisfazione, un prurito. Non vorrei entrare nel particolare del rapporto con suo marito, ma quando le mani prudono forse c'è anche, sì, qualche tensione. Infatti le mamme dicono mi prudono, vai che mi prudono le mani. È tipico. Quindi c'è qualche cosa che vorrebbe venire fuori? È anche un rifiuto a volte del proprio lavoro. Io l'ho visto parecchie volte in donne con professioni tipo estetiste, parrucchiere, quando non se ne può più di utilizzare le mani, quando si è stanche, non si ha più voglia di farlo, quando non si ha più voglia di essere molto pazienti con le clienti, per esempio. Mm. Questo però è un caso particolare. In altri aspetti, in altri casi, è una sorta di energia di irritazione che la mano mi butta fuori. Professor Gelmetti, andiamo prima al nostro consiglio di lettura e poi parliamo di queste mani che si desquamano, e vorrei parlare anche di prurito. Mi prudono le mani, ma tante volte il prurito è localizzato in altre sedi, oppure siamo tutti un prurito e lì è difficile non grattarsi. Andiamo al consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa un libro che si intitola La pelle, specchio delle emozioni. Naturalmente per avere questo libro, ricevere questo libro, dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it con titolo del libro, recapiti e numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Professor Gelmetti, perché le mani si desquamano, prudono? Non... Allora, era interessante l'osservazione ovviamente della Marafante. Io però direi la cosa più semplice per affrontare il problema è scomporlo. Ad esempio, se noi abbiamo una banale intolleranza a una sostanza, e giustamente la Marafante diceva ad esempio parrucchieri eccetera eccetera, l'interpretazione di livello psicologico ci può stare in molte pazienti e magari in altre pazienti di meno, però da questo punto di vista noi dobbiamo escludere che ci sia un'allergia specifica a un prodotto, certo, usato nell'ambito professionale, perché è chiaro che se noi abbiamo un'allergia, per dire, a una tintura e togliamo questa e tutto va a posto, si risolve tutto. L'ipotesi poi magari di un conflitto magari resta in piedi, ma non in relazione al sintomo pelle che desquama le mani, chiaro. Invece quando una persona non usa le mani in maniera particolare, fa appunto un lavoro come la nostra Roberta, eccetera, sì, eccetera, evidentemente questa ipotesi va presa in considerazione. Quindi come primo step, primo gradino, escludere con test allergologici, che sono in questo caso del tutto affidabili, che ci sia un'allergia verso qualcosa che si tocca, togliendo la quale ovviamente la situazione andrebbe a posto. Se questi test sono negativi, evidentemente la cosa diventa più complessa, sia dal punto di vista, diciamo, di medicina, di testistica, sia dal punto di vista di psicodinamica. E la faccenda che le mani prudano spesso è dato dal fatto che, dato che la pelle delle mani è molto compatta, molto robusta, basta che ci siano piccole raccolte di siero sotto pelle che aumentano la pressione, tirano la pelle, diciamo, e il prurito è veramente molto fastidioso. Cioè la stessa quantità di lesioncine in altra sede darebbe fastidio molto più attenuato. Sulle mani invece la cosa è molto più sentita, oltre alla visibilità, chiaramente, questo è un altro problema ancora. Professor Gelmetti, Roberta ci descriveva questo prurito alle mani. Ci sono dei pruriti che sono localizzati, altri invece che sono, invece interessano grandi parti molto estese del nostro corpo. Con il suo occhio clinico che cosa ci suggerisce? Ma in questo caso al 90% la descrizione che ha fatto Roberta è un eczema di tipo atopico, nel senso che una volta escluso che ci sia un eczema banale da contatto, la maggior parte di queste forme con piccole bollicine che vengono poi con una certa stagionalità, evidentemente è difficile che siano da attribuire a un contatto, perché se uno fa il parrucchiere e tocca un colorante lo colora tutti i giorni, se uno fa il muratore dice la stessa cosa. Se invece la cosa è stagionale, permette già in questo caso di ipotizzare una sensibilità ad esempio agli acari della polvere. Nel senso che se noi avessimo la stessa sensazione, le stesse lesioni all'inizio della primavera, ripetitive, potremmo pensare a un equivalente di raffreddore da fieno a livello delle mani e quindi da polline. Se invece abbiamo la stessa cosa, soprattutto nelle regioni invernali, ovviamente l'impollinazione generale non c'è, perlomeno per i principali pollini, ma c'è in compenso l'aumento veramente importante degli acari della polvere, che sono nel mondo occidentale la prima concausa, diciamo, di eczema atopico e quindi alle mani. Luca ci chiama da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, intanto complimenti a voi e a tutta la radio, è molto utile. Originale. Va bene, ce li prendiamo tutti, grazie Luca, andiamo alla domanda. Benissimo, da 5 anni a questa parte circa, anche in seguito a un periodo di stress, tra virgolette, emotivo abbastanza forte, ho la pelle molto secca, che arriva quasi a squamarsi, anzi si squama più di una volta in vari periodi dell'anno, tra sopracciglia e ciglia. Sì, un po' la condizione che è stata descritta già da un precedente ascoltatore. Esatto, un po' simile, insomma, io vi ascoltavo, ho perso la primissima parte della vostra trasmissione. Sì, e lei lo lega allo stress? Beh, è emerso in un periodo di stress, adesso voglio dire, negli ultimi 5 anni non ho più vissuto periodi così complicati, per cui per carità può darsi che la causa è stata quella, però adesso esiste ancora l'effetto, quindi mi chiedo che cosa è possibile fare su questo. Professor Gelmetti, un consiglio? La diagnosi è evidentemente sostanzialmente quella di dermatite seborroica. Dal punto di vista dello stress bisogna dire che quando uno è sotto stress consuma le proprie riserve di cortisolo, che è il cortisone naturale, e quindi non a caso poi quando lo mette dall'esterno ottiene un immediato beneficio. Però giustamente se lo mettiamo dall'esterno poi il nostro corpo si disabituerà a produrlo in maniera regolare, per cui il consiglio così immediato è che una applicazione per pochi giorni di pomata cortisonica aiuterà senz'altro a rimettere a posto la faccenda. Però se c'è alle spalle una situazione di continuo stress, quindi di continua deprivazione di cortisolo endogeno, la situazione non può che ripresentarsi, a meno che il nostro paziente si trasferisca alle Maldive col sole locale. E lì ci trasferiamo tutte, anche perché un po' di vacanza giova sicuramente alla pelle, forse perché, dottoressa Marafante, ci distendiamo, ci rilassiamo. Consiglio che facile da dare, difficile da seguire. Anche un altro consiglio, però. È vero che ci sono questi disagi cutanei che possono rispondere ad allergie, ad acari, ma io sono abituata a domandarmi sempre il perché del perché. Se la mia pelle ha gli strumenti per difendermi, perché in primavera deve reagire male ai pollini? E allora mi domando che cos'è il polline? E se paragono il polline allo sperma della natura, mi domando anche ma perché io sono allergica a un erotismo che in questo periodo dell'anno, per esempio, dilaga, e allora forse mi do una risposta quando ho un arrossamento, un prurito vicino all'inguine, ai genitali, sotto le ascelle, nelle parti più intime, quando la pelle mi prude tutta. È il fuoco che cerca di uscire. E da tanto tempo noi ci stiamo occupando di queste patologie e ne scriviamo ogni mese, e a luglio uscirà un nuovo numero di Mente Corpo, la nostra rivista, che parlerà proprio di tutti i problemi cutanei. Vede, quindi in un certo senso l'abbiamo anticipata. Grazie. Professor Gelmetti, grazie per essere stato con noi, è sempre un piacere. Buona giornata. Grazie a voi. Dottoressa Marafante, con lei abbiamo scoperto dei lati nascosti della nostra pelle che abbiamo visto. Parla tantissimo. E magari imparare a decifrare il linguaggio della pelle può aiutarci anche a stare meglio. Dottoressa Marafante, grazie. Grazie a lei. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Vi aspetto. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.